GR24, il sole 24 ore. Peggio è alle spalle, dice Berlusconi. Dall'OCSE segnali positivi per l'Italia. Secondo l'Istat cresce l'ottimismo. 13 morti, 30 feriti nella strage in una base americana in Texas. È stato un medico militare di origine palestinese. Altre due vittime per l'influenza A. Perde la vita una bambina di 9 anni. Inizia il viaggio di Radio 24 su come va la vaccinazione negli altri paesi. Oggi andiamo in Francia. Occhi d'Italia puntati sulle ragazze del tennis. Domani potrebbero vincere la Fed Cup, la Coppa Davis femminile. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. Benvenuti all'edizione delle 13 che apriamo andando a Palazzo Chigi. C'è stata una conferenza poco fa del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, dove molto si è parlato di ripresa, insomma di crisi. Ci colleghiamo dunque con Vincenzo Miglietta, che era a seguire la conferenza stampa. Vincenzo. Sì, buongiorno. Situazione economica del Paese, grandi opere in primo piano nel consueto appuntamento con la stampa del Presidente del Consiglio Berlusconi al termine della riunione dell'esecutivo. Prima però la questione crocifissi nei luoghi pubblici, li terremo, ha detto il Premier, la sentenza in questione non è coercitiva. I temi economici dunque che avevamo anticipato, il peggio della crisi è alle spalle, ha detto il Presidente del Consiglio, che ha ricordato con soddisfazione il sorpasso dell'Italia in termini di prodotto interno lordo nei confronti della Gran Bretagna al sesto posto, ma ascoltiamo Berlusconi. Per quanto riguarda la crisi ci sono forti segnali di ripresa, un po' dovunque. OCSE stamattina, l'avrete visto, segnala l'Italia al top come ripresa, e anche per quanto riguarda i contatti che noi abbiamo col mondo delle imprese, sia per quanto riguarda le imprese industriali, grandi, le medie, le piccole imprese, gli artigiani e i commercianti, devo dire che i rapporti che io sto costantemente tenendo con le loro associazioni mi fanno dire che c'è un diffuso ottimismo. Altro capitolo, il piano casa. Berlusconi ha annunciato che vuole stringere i tempi, da qui la convocazione a breve dei presidenti delle regioni. Il fronte infrastrutture, poi, il Premier ha confermato lo stanziamento di altri 8,7 miliardi di euro. Tra le opere approvate, l'asse stradale Pedemontana-Lombarda, le metropolitane M4-M5 di Milano, il primo lotto della ferrovia alta velocità Genova-Milano, via libera poi alla fase progettuale del ponte di Messina. Si tratta, ha detto il ministro Matteoli, di un'altra tappa fondamentale dell'azione del governo, ma sentiamo Matteoli. Credo di poter dire che in pochi mesi, non so, in poco più di un anno, 23 miliardi di opere infrastrutturali in un momento di crisi economica e finanziaria, non italiana ma mondiale, credo che si possa dire che sia stato un successo. Queste, Simone, le parole di Matteoli, e da Roma è tutto, linea allo studio. E grazie Vincenzo Miglietta. Abbiamo sentito il Presidente del Consiglio che citava i dati diffusi dall'OCSE questa mattina. Tra l'altro, oltre a quelli dell'OCSE ci sono anche quelli dell'Istat. Ne chiediamo conto alla nostra Valeria De Rosa. Valeria. Sì, Simone, allora, come si diceva, le economie dell'OCSE continuano a mostrare forti segnali di ripresa. A dirlo è il super indice di settembre, che ha segnato un aumento di 1,3 punti rispetto ad agosto e di 3,4 punti su settembre 2008. Questo è quanto rileva l'organizzazione di Parigi, secondo cui l'Italia è il paese che mostra l'incremento maggiore su base annua, mentre su base mensile l'incremento maggiore è dato alla Germania. Le uniche economie che rispetto a settembre dello scorso anno sono in calo sono il Giappone, il Brasile e la Russia. Ricordiamo però che il superindice dell'OCSE è un indice composito che fa delle previsioni sul futuro, quindi non fotografa la situazione attuale ma quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi. Per quanto riguarda invece l'Istat, qui si tratta di misurare, diciamo così, l'ottimismo degli italiani sulla propria situazione economica. Allora, che cosa succede? Che nei primi 9 mesi del 2009 molte famiglie italiane giudicano la propria situazione economica sostanzialmente invariata e sono una percentuale maggiore rispetto a quella dello scorso anno. Questo perché nel 2008, nei primi mesi del 2008, molte famiglie si erano, come dire, sentite più povere. Per quanto riguarda la situazione geografica, questo avviene di più al centro e al nord, mentre nel mezzogiorno sono ancora tante le famiglie che denunciano un peggioramento significativo della propria condizione. Grazie Valeria anche per questi aggiornamenti. Si è parlato di stanziamenti appunto da parte del CIPE, ci sono degli stanziamenti al centro di polemiche politiche e non solo in questi giorni, riguardano e sono quegli 800 milioni che dovrebbero andare alla banda larga. È appena arrivata una dichiarazione di Confindustria nella quale si dice che il ritardo nell'assegnazione dei fondi arreca un grave danno al paese. Su questo tema è intervenuto questa mattina il vice ministro alle comunicazioni Paolo Romani a 9 in punto, ospite di Oscar Giannino. Ascoltiamolo. Abbiamo già un pacchetto di circa 550 milioni sui quali i lavori sono incominciati. Gli 800 che non si ha necessità che arrivino domani mattina. Certo, ci avrebbe fatto comodo che almeno una prima tranche fosse arrivata oggi o anche domani mattina, ma come diceva ieri il sottosegretario Letta nella conferenza stampa, ieri l'altro che abbiamo fatto insieme, non è la prima degli investimenti, è la prima priorità degli investimenti ordinari una volta che si è usciti dalla crisi, dal tunnel della recessione. Io mi auguro che questa crisi non duri due anni che qualche pessimista evoca possa durare, io penso che duri molto molto meno. Quindi se fra qualche mese, uscita dalla crisi, si potranno fare gli investimenti e questa è stata considerata ed è stata giudicata dal governo una priorità assoluta, a mio avviso questi 800 si agganciano ai soldi che già abbiamo in casa e sui quali stavamo già lavorando. E si parla molto di investimenti in ricerca nella giornata nazionale della ricerca che si sta svolgendo a Roma. I lavori li sta seguendo la nostra Alessandra Schepisi. Alessandra. Sì, buongiorno. Ricerca e innovazione come chiave di volta per uscire dalla crisi è il messaggio che arriva dalla settima giornata della ricerca promossa da Confindustria. Occorre investire di più, dicono gli industriali, mentre oggi solo l'1,13% del PIL è destinato a questo settore. Abbiamo bisogno di strumenti concreti a supporto delle imprese, ha detto il presidente di Confindustria Marcegaglia, che è anche tornato a parlare dell'ipotesi del taglio dell'IRAP. Sarebbe solo l'inizio, auspichiamo che possano seguire ulteriori tagli di tasse che in un momento di difficoltà come questo aiuterebbero la ripresa. Nonostante la crisi, però, aggiunto Marcegaglia, ci sono segnali incoraggianti, cioè imprese che continuano ad innovare. Sentiamo. Non partiamo da un deserto, in Italia ci sono già tante aziende che fanno ricerca e innovazione, dobbiamo supportarle, dobbiamo aiutarle, dobbiamo unirle per rendere la ricerca, come dire, una missione molto forte per tutto il Paese. Ricerca e innovazione come settore strategico e volano economico del Paese, ha detto anche il ministro dell'istruzione Gelmini, intervenuto poco fa, ma occorre che le imprese facciano sistema, annunciando la Gelmini risorse in arrivo per le imprese. Sentiamo. 100 milioni di euro per le imprese del Nord, a fine novembre un bando sul PON, quindi 1 miliardo e 600 milioni di risorse per le regioni della convergenza, quindi per tutte le regioni o quasi del Mezzogiorno, che sono credo un fatto assolutamente positivo, purché ci sia la capacità di fare squadra. Grazie dunque anche ad Alessandra Schepisi. Adesso ci spostiamo all'estero per la strage che è avvenuta questa notte negli Stati Uniti in una base militare in Texas. Tutti gli aggiornamenti da Valentina Furlanetto. Valentina. Sì, come dicevi, la strage c'è stata nella base di Fort Hood in Texas ieri alle 13:30 locali, le 20:30 di ieri sera in Italia. Malik Nidal Hassan, uno psichiatra ufficiale dell'esercito, ha aperto il fuoco, ha ucciso 12 persone, 31 sono rimaste ferite, fra cui lui stesso. Secondo i suoi conoscenti non voleva partire per l'Iraq e forse per questo avrebbe sparato, è ferito ma non è in pericolo di vita e forse quindi potrà chiarire lui stesso perché ha compiuto la strage. Ha agito da solo e davanti a quello che è accaduto il presidente Barack Obama ha detto: una terrificante esplosione di violenza. There has been a tragic shooting at the Fort Hood Army base in Texas. What we do know is that a number of American soldiers have been killed and even more have been wounded in a horrific outburst of violence. Come avete sentito, la voce del presidente Obama ha riepilogato quello che è accaduto. Hassan aveva 39 anni, ha 39 anni, è musulmano, americano di origine giordana. Questo il profilo fornito dalle autorità americane. Aveva passato 6 anni al Walter Reed, l'ospedale militare più famoso d'America, come psichiatra. Fort Hood è la più grande base militare degli Stati Uniti e uno dei principali centri di smistamento per i soldati in partenza e in arrivo da Iraq e Afghanistan. è anche una struttura tristemente nota per l'altissimo numero di suicidi e dove dal 2002 si sono verificate altre 3 sparatorie mortali. Ed è tutto. Grazie Valentina Furlanetto e andiamo a chiudere questa prima parte del giornale radio parlando di musica, parlando di 2 duetti, cioè 2 cantanti italiane, un cantautore che festeggia 50 anni di carriera e una guest star molto francese. 4 cantanti dunque per 2 brani che escono oggi. Una canzone per la forza delle donne. Una storia tra 2 amiche, una che soffre, l'altra che la conforta, e le donne unite e solidali che possono insieme fare grandi cose. Salvami, mi fa male quando è sincero. Esce oggi il duetto Salvami, 2 grandi voci italiane, Gianna Nannini e Giorgia. La Nannini l'ha scritta con Pacifico, ormai una delle più grandi firme della musica italiana. Voleva regalarla ad Aretha Franklin, ma l'amicizia con Giorgia è stata più forte. Per me, per me. Tra un artista e la sua fan, almeno assicurano le note stampa, è invece il duetto Carla Bruni-Gino Paoli. La Bruni aveva già registrato Le ciel dans une chambre nel suo primo album, che il chiama Di. È una tra le canzoni più belle della musica italiana, ma non ce ne voglia la signora Bruni. Ricordiamo versioni un filino più convincenti. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti. Alberi infiniti. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci occupiamo di mafia e non solo, perché c'è stata una conferenza stampa questa mattina del ministro dell'Interno Roberto Maroni davanti alla stampa estera. L'ha seguita per noi Andrea Viali. Andrea, che cosa ha detto il ministro? Sì, Simone Maroni ha detto innanzitutto che in questo momento è l'Andrangheta l'organizzazione criminale più pericolosa in Italia. Il ministro ha incontrato i giornalisti stranieri, come dicevi, per fare il punto sui provvedimenti adottati dall'esecutivo per contrastare i vari gruppi mafiosi attivi nel nostro paese. Un'azione, quella portata avanti dall'esecutivo, che ha ottenuto risultati molto migliori rispetto a quelli ottenuti dagli altri governi, dai governi precedenti, ha detto Maroni, che è anche tornato sul problema delle risorse da destinare alle forze dell'ordine, una questione, lo ricordiamo, che lui stesso aveva sollevato anche alimentando alcune polemiche nei giorni scorsi. Il ministro ha fatto sapere che stamattina il presidente del Consiglio Berlusconi gli ha assicurato il suo totale impegno per reperire il massimo dei fondi disponibili per la sicurezza, che resta una delle priorità del governo. Altra questione importante affrontata da Maroni stamattina è stata quella del terrorismo islamico dopo l'attentato di Milano, un attentato preoccupante dopo il quale il quadro della minaccia terroristica in Italia è cambiato, ha detto il ministro, secondo il quale non è da escludere che altre cellule si stiano addestrando nel nostro paese per compiere nuove azioni terroristiche. A te la linea. E grazie Andrea Viali per questi aggiornamenti. Ebbene, in apertura del giornale radio abbiamo parlato degli stanziamenti per le grandi opere pubbliche, abbiamo parlato degli stanziamenti per la banda larga e abbiamo parlato adesso di risorse per la sicurezza. Adesso parliamo invece di risorse per la ricerca. Uno dei protagonisti di questo sforzo potrebbe essere il Consiglio Nazionale delle Ricerche, una realtà ricca di eccellenze, ma la situazione economica dell'ente appunto e il suo ruolo di gestore di risorse che potrebbe essergli attribuito fanno discutere. A Capri, davanti ai giovani industriali, il ministro dell'economia Tremonti aveva ipotizzato che il CNR potesse diventare un redistributore efficiente dei fondi europei, soprattutto per il mezzogiorno. E dalle colonne di Nova 24, il settimanale di innovazione del Sole 24 Ore, il presidente Maiani aveva risposto positivamente. Ma la fotografia del Consiglio Nazionale delle Ricerche fatta da Sergio Rizzo sul Corriere di oggi riaccende il dibattito sul ruolo e gestione dell'ente di Piazzale Aldo Moro. almeno 4 le contestazioni già sollevate dal sindacato USI RDB Ricerca. Un buco da 18 milioni di euro legato soprattutto agli aumenti di stipendi, una fortissima crescita delle consulenze, l'asta deserta per la cessione dell'osservatorio di Anacapri avuto dalla Svezia per pochi soldi nell'82, l'impasse sull'uscita dalla società quantica. Dal CNR precisano che l'esplosione delle consulenze tra 2006 e 2008 è legato solo al fatto che l'obbligo di registrazione è scattato il 14 novembre 2007, rendendole evidenti, e che anzi quelle che gravano sui fondi interni sono calate nell'ultimo anno del 30%. Ma per il segretario di USI RDB Ricerca, Rocco Tritto, la situazione complessiva è la prova che il CNR non deve fare il gestore dei fondi, ma deve concentrare le forze sull'attività di ricerca. Vorremmo vedere il CNR che si propone per avere risorse, cioè tra i beneficiari sia dei fondi europei che dei fondi di quantica, e invece qui il mondo si rovescia. Vediamo il CNR proporsi come gestore, come erogatore di fondi, ma non potrà mai erogarli a se stesso. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. Le cronache dall'influenza A adesso. Ci sono 2 nuove vittime questa mattina, erano entrambi malati di tumore, una bambina di 9 anni morta a Campobasso e un uomo di 55 anni che è morto invece a Mestre. Inizia oggi un nostro viaggio su come sta procedendo la vaccinazione negli altri paesi e come funziona negli altri paesi. Oggi andiamo in Francia. Vaccinazioni al via dalla prossima settimana. Da giovedì 12 novembre in Francia ci si potrà vaccinare contro l'influenza A. E così, mentre nei 1000 centri di vaccinazione si stanno completando i preparativi, in questi giorni il Ministero della Sanità sta inviando le lettere di convocazione a 6 milioni di francesi. Questa prima ondata di vaccinazioni toccherà i soggetti a rischio. Saranno vaccinati i lattanti, il personale degli asili nido e quello delle case di riposo e le persone che soffrono di patologie respiratorie. Le vaccinazioni per le donne incinte, invece, partiranno il prossimo 20 novembre. Tuttavia, in attesa di vedere quale sarà la risposta dei francesi, i sondaggi mostrano che l'opinione pubblica è piuttosto scettica riguardo la vaccinazione. Intanto il bilancio delle vittime dell'influenza A si è aggravato e in totale si contano 22 decessi. E per far fronte alla situazione, la Francia ha ordinato 94 milioni di dosi di vaccino, una quantità senza equivalenti in Europa. Igor Fiatti, GR24, Il Sole 24 Ore, Parigi. E molte scuole sono vuote in questi giorni proprio a causa dell'arrivo dell'influenza A. Si parla di scuola anche nel nostro sondaggio, di scuole e di assenze anche nel nostro sondaggio. Cari genitori, magari una mattina siete al lavoro, sovrappensiero o a sbrigare qualche pratica e il vostro telefonino fa così. È un SMS, solo che a mandarvelo è la scuola dove va vostro figlio. Vi informano che oggi lui non si è presentato in classe. Magari lo sapete già, magari invece ha bigiato, ha marinato, ha fatto filone o come volete, e la scuola ve lo fa sapere. Il servizio è già attivo in alcuni istituti italiani, presto potrebbe essere la normalità. Già, ma siete d'accordo con questa segnalazione? Era il nostro sondaggio di oggi e l'89% di voi la trova un'iniziativa giusta. Tra le mosche bianche contrarie c'è la conduttrice televisiva Camila Raznovic. Il controllo non può avere la meglio sullo spirito umano, voglio sperare, voglio credere, perché è bello ed è giusto che l'essere umano cresca, ovviamente con dei paletti, ovviamente con un'educazione, ovviamente con una disciplina, ma non con un controllo da vigile urbano. Bianco o Nero torna lunedì mattina alle 8:30 per votare, radio24.it, Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. E ora l'ultima puntata del nostro viaggio nella Berlino dopo il muro. Mein Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt, die Einheit unserer Nation. Berlino, oltre il muro. Castagne Halle, cuore della Berlino una volta dell'Est. Nella foto che Stefan Koppelkamp si è portato dietro in questo giro c'era una vetrina con tante bandiere della DDA e tre fagiani appesi a testa in giù. Ora lampade Liberty e candele colorate accolgono intorno a tavolini decine di giovani. Eccola la Berlino rinata in questi 20 anni dal crollo del muro, pulsante di vita ma senza le sue tracce di storia, nota con un po' di rammarico il fotografo che attraversò la cortina di ferro, restando colpito da strade prive di vita, palazzi con i segni dell'ultima guerra, negozi vuoti di merci. Da noi il nuovo passa attraverso la rimozione, come in quelle famiglie povere, sospira, che diventate ricche buttano i segni dei tempi della miseria. E nella città cantiere che si interroga sulla ricostruzione di antichi castelli, questo anniversario è un'ulteriore occasione per misurarsi col passato. Non è un caso così se inizialmente solo cittadini della Berlino Ovest hanno risposto all'invito della Cineteca Nazionale di inviare foto del 9 novembre dell'89. Solo dopo nuovi appelli abbiamo raccolto scatti e storie anche da chi stava al di là del muro, ci racconta Ulrike Schmigelt, curatrice della mostra Via Warens und Frei. Nikolaus Becker faceva il fotografo già ai tempi della Repubblica Federale. Passeggiando ora su un tappeto rosso di foglie, rivede i luoghi di una delle ultime manifestazioni represse prima che i varchi si aprissero. Il 7 ottobre la polizia picchiò e arrestò molti manifestanti e sequestrò i rullini ai fotografi, ricorda. Lui le sue foto riuscì a salvarle e le espone per rammentare la DDA anche a chi oggi si fa prendere da una vaga Ostalgie. L'unica cosa di cui io sento la mancanza, sorride, è il pane di allora e l'abitudine a fare scherzi. Serviva a sopportare meglio la realtà. Raffaella Calandra, GR24, Il Sole 24 Ore, Berlino. Siamo in chiusura con il tennis. Domani e domenica a Reggio Calabria la finale della Fed Cup, la Coppa Davis femminile, con l'Italia favorita per il successo sugli Stati Uniti. Sarà che le sorelle Williams hanno dato forfè? Sarà che le avversarie statunitensi non hanno gran nome? Sarà che le azzurre in Fed Cup hanno abituato a stupire e dopo il trionfo del 2006 hanno giocato un'altra finale e hanno battuto quest'anno le fortissime Francia e Russia? Ma la finale che scatta domani sembra avere un pronostico chiuso e chissà come se la caveranno Pennetta, Schiavone, Rani e Vinci, le nostre quattro moschettiere, non più da outsider di lusso ma da favorite d'obbligo. Lo scopriremo fin dal primo singolare deciso dal sorteggio di questa mattina. Si parte alle 11 sul campo del Tennis Club Polimeni con la sfida tra la nostra numero 1 Flavia Pennetta e la numero 2 statunitense Alexa Glatch, che sarà anche la 132 al mondo, ma a Parigi in giugno ha battuto la brindisina con un umiliante doppio 6-1. A Reggio Calabria, come conferma il CT azzurro Corrado Barazzutti, sarà tutta un'altra storia. Le ragazze trovano in Fed Cup, anche quando magari non hanno dei buoni momenti nei tornei, ma trovano motivazioni molto forti. Poi hanno trovato tra di loro questo grande spirito di squadra, trovato assolutamente in maniera naturale, spontaneo, e quando è così il rendimento aumenta in una maniera incredibile. Domani pomeriggio la Schiavone affronterà la numero 1 americana, la giovanissima Uden. Domenica gli altri due singolari, poi il doppio Vinci e Rani contro Huber King. Massimo Di Scienza, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Maria Piera Cece, con in regia Paolo Corleoni. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.